guardiamo l'orologio, no? A che ora fanno le cose le persone? Alle 9 del mattino ascoltano certamente la radio oppure si informano velocemente leggendo i giornali, al pomeriggio usano il messenger i ragazzi per fare un po' i compiti e un po' per non fare i compiti, insomma ci sono momenti diciamo di esclusività nella fascia nel quotidiano di ciascuno di noi. Il mondo dei videogiochi è un mondo molto particolare. Intanto perché guarda una certa fascia di età di persone, che non è necessariamente quella dei teenager, ma anche oltre. C'è un'intensità di utilizzo molto elevata, i ragazzi o le persone che giocano a un videogioco sono fortemente concentrati su quello che sta avvenendo. E terzo, c'è una ricerca dell'innovazione nel gioco. Allora, incredibile ma vero, qui la pubblicità gioca una partita molto positiva, rende molto più realistici molti giochi e poter quindi permettere a investitori pubblicitari, in accordo con chi ha sviluppato i giochi, di posizionare un messaggio pubblicitario però in maniera tale che sia pienamente parte del gioco e diciamo il gioco fatto in maniera perfetta. E quindi noi da qualche mese permettiamo e riusciamo a far sì che investitori pubblicitari siano presenti in giochi molto importanti che sono sia sulla piattaforma Xbox 360 quando collegata in rete che su alcuni giochi da PC, in maniera tale da poter essere vicino a questi utenti, ma nell'ambito di un gioco in cui il tutto ci stia bene, che non sia così sbordato. Su 10 giochi nuovi quanti hanno la pubblicità? Un numero crescente, potenzialmente la pubblicità dipende poi se l'utente la vuole o meno e se lo collega in rete, ma un numero crescente lo prevede, quindi i giochi quando vengono diciamo costruiti all'inizio dal produttore vengono previsti in questo formato qui, prevedono lo spazio pubblicitario, poi che ci sia o meno dipende dal giocatore, dipende anche dagli investitori pubblicitari, quindi è un fenomeno che sta diventando rilevante. Con il rispetto degli utenti, in Inghilterra dove questo servizio è stato lanciato qualche tempo fa, vi è stato anche modo di misurare se agli utenti fa piacere o meno. E abbiamo misurato che oltre 3 su 4 dei giocatori in Inghilterra ha apprezzato l'oggetto pubblicitario, lo vuole, anziché il contrario, quindi rende più realistica l'esperienza e più divertente il gioco stesso.